Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, bentornati a Salvadanaio, ricominciamo una nuova settimana e bentrovati a tutti quanti da Deborah Rosciani. Allora, tra un po' cominciano gli esami di maturità. Chissà quanti ragazzi e rispettive famiglie affronteranno questo impegno con le idee più o meno chiare sul proprio futuro, ad esempio come ci si può orientare nella scelta del corso universitario che seguirà la maturità. Lo so che in genere si cerca di assecondare nella massima misura possibile i gusti, la vocazione, le attitudini della persona, ma certo non si possono sottovalutare anche altri aspetti fondamentali: le necessità del mercato del lavoro in primo luogo, l'onere che deve sostenere la famiglia, finanziario, la possibilità di ottenere borse di studio. Insomma, ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione e a questo tema, che è indiscutibilmente molto ampio, oggi il Sole 24 Ore dedica la sua terza guida pratica dopo la guida agli investimenti sicuri di due lunedì fa e quella di lunedì scorso, la guida alle nuove pensioni. Oggi si parla di università, quindi la scelta dell'università, istruzioni per l'uso. Naturalmente una guida pratica che vi dà l'opportunità di inviare dei quesiti alla redazione del Sole 24 Ore, che provvederà poi a smistarli agli esperti messi in campo su questo argomento, una task force molto nutrita. Poi vi darò tutte le indicazioni per poter inviare appunto i vostri quesiti, ma naturalmente qualcuno ne potrete inviare o sollecitare anche a noi all'800240024 per intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere alle 349-238-6666. Saluto il collega del Sole 24 Ore, Cristiano Dell'Oste, che come al solito ci aiuta su questo argomento. Molto spesso lo disturbiamo anche su altri temi, ma devo dire che l'università, la guida e i master, Cristiano, sono un po' dei tuoi cavalli di battaglia. Diciamo che sono appuntamenti fissi. Intanto buongiorno a tutti. E infatti, appuntamenti fissi con il Sole. Quest'anno, peraltro, un tema molto interessante quello della scelta universitaria, perché come sappiamo anche i nuovi piani del Ministero dell'Istruzione ha cancellato diversi corsi, e quindi vedremo anche un po' di fronte a quale panorama si trovano le famiglie e gli studenti quest'anno. Gianluca Dan, dottore commercialista, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, ci aiuta a capire invece come anche il corso universitario, la scelta della facoltà universitaria di un ragazzo, può essere un'esperienza dal punto di vista fiscale un po' più leggera per le famiglie. Buongiorno e benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. E più tardi ci collegheremo con il professor Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea, che ci racconterà un po' anche qual è, come dire, la situazione generale, anche dalle loro statistiche elaborate ogni anno e che in qualche maniera fanno un po' il punto della situazione anche su cosa succede ai ragazzi che escono dall'università, quindi quali sono le prospettive di lavoro. C'è un tema interessante anche sul quale mi sono confrontata stamattina con i ragazzi che lavorano con me, i miei due assistenti, perché Alma Laurea dice che praticamente in media il primo stipendio che si percepisce ad un anno dal conseguimento del titolo di laurea è di circa 1.000 euro, e loro mi hanno detto: stiate sognando. E qui insomma anche questo è un aspetto interessante. Comunque, famiglie, chiamateci al numero verde, vi ho già ricordato appunto qual è, quindi saremo molto felici di sentire le vostre perplessità, le vostre curiosità, le vostre domande. Anno dopo anno la quota di studenti iscritti all'università va aumentando, di pari passo con la speranza che un buon titolo di studio possa perlomeno aiutare ad ottenere un buon posto di lavoro. Una volta individuata la facoltà e il percorso accademico, quali sono le principali spese da sostenere? Un figlio iscritto all'università può costare circa 3.700 euro l'anno se vive in famiglia e addirittura oltre i 10.000 euro se si tratta di uno studente fuori sede. Mantenere il figlio studente fuori casa diventa così un lusso che solo poche famiglie si possono permettere. Il problema più evidente è senza dubbio rappresentato dall'affitto, le cui cifre astronomiche, soprattutto nelle grandi città, spingono ad optare per gli alloggi universitari, purtroppo non molti, o per una stanza singola. Oltre all'alloggio, si devono poi aggiungere le spese per le tasse universitarie, calcolate su parametri differenti in base alle diverse città, quelle per i libri, per i pasti e per i trasporti pubblici. Una boccata di ossigeno arriva dalla possibilità di detrarre alcune di queste voci dall'IRPEF, come la spesa per l'iscrizione all'Ateneo e, soltanto per gli universitari fuori sede, quella per l'affitto. Ecco spiegata dunque la corsa alle borse di studio erogate dallo Stato, anche se ottenerle negli ultimi tempi, tra risorse limitate e limiti di accesso, è diventato sempre più difficile, soprattutto al Sud. Esistono però altre forme di prestiti create appositamente per gli studenti, per non gravare totalmente sulle tasche dei genitori. Dal progetto targato ABI Diamogli Credito, che consiste in prestiti personali dai 1.000 ai 6.000 euro e che richiede una sorta di soglia di merito, ai cosiddetti prestiti d'onore offerti dalle principali banche italiane. 800 24 00 24, tenete a mente il numero verde per chiamarci. E allora, c'è già un ascoltatore che ci scrive: vorrei un parere su ingegneria gestionale, cosa ne pensate, Cristiano? Beh, il tema degli ingegneri, che come dire, forse sono in numero inferiore rispetto a quelle che potrebbero essere le esigenze di mercato, un tema vecchio come il mondo, però adesso magari può trovare una risposta anche a questa domanda nel nostro dossier, l'ascoltatore. Sicuramente, poi diciamo che nello specifico questo è un tema su cui il professor Cammelli potrà dire molto, ma in generale ingegneria si conferma con economia come una delle lauree più solide dal punto di vista occupazionale, o come quelle che garantiscono i maggiori ritorni in termini sia di stipendio netto che in termini di diciamo stabilità del posto di lavoro, quindi stabilità della tipologia contrattuale. Quindi è più facile, per quanto possa essere facile in un momento come questo, sperare di raggiungere il contratto a tempo indeterminato o quello che una volta si chiamava il posto fisso. Questo come infatti, aspetto. E poi comunque insomma dipende da tante variabili, dipende anche qual è poi la nostra vocazione, che cosa, come ci cominciamo ad orientare una volta che abbiamo la laurea in tasca. Ci sono tanti percorsi, per cui chiaramente poi dare un giudizio così in termini generali è molto difficile. Sì, e poi è bene ricordare, sottolineare che è vero, esistono in linea di principio lauree forti e lauree deboli sul mercato del lavoro, ma è altrettanto importante capire che anche una laurea debole può acquisire valore se nel proprio percorso di studio si vanno ad inserire una serie di ingredienti, come possono essere l'esperienza all'estero, la conoscenza delle lingue, stage formativi nei posti giusti, qualche esperienza nelle aziende che consentono di dare un po' di valore aggiunto appunto al proprio curriculum. Allora, ingegneria gestionale lasciamo da parte. Negli ultimi 3 anni sono stati cancellati, titola Il Sole questa mattina, pagina 9, 800 corsi di laurea. Il mondo universitario è stato oggetto di una razionalizzazione piuttosto incisiva rispetto, per esempio, Cristiano, alla puntata che abbiamo fatto lo scorso anno. Adesso è difficile ovviamente stabilirlo con esattezza, ma quanti corsi in meno qui di 3 anni si parla, e soprattutto quali esclusioni eccellenti ci sono state, eccellenti, diciamo un po' vistose, stravaganti? Guarda, diciamo che rispetto all'anno scorso sono più o meno 300 i corsi tra primo livello, secondo livello e ciclo unico che sono stati eliminati. E diciamo anche che non è necessariamente una brutta notizia questo taglio dei corsi, perché quando si era raggiunto il massimo dell'espansione dell'offerta formativa dopo l'introduzione del 3 più 2, il cosiddetto 3 più 2, quindi laurea di primo e di secondo livello, ecco lì probabilmente si era esagerato. C'erano corsi estremamente specifici, materie molto settoriali, alcune anche fantasiose, che si erano attirate un po' le prese in giro, come il benessere del cane e del gatto e così via. Ecco, quindi cose veramente anche troppo specifiche. Quindi in qualche modo quello che noi abbiamo visto negli ultimi anni è una sorta di riordino dell'offerta formativa che si è un po' rifocalizzata, concentrata sulle materie di base. Questo non vuol dire che scegliere sia più semplice, certo, perché comunque un ragazzo che oggi finisce le superiori si trova di fronte, escludendo i corsi diciamo di secondo livello, quindi quelli che sceglierà dopo, si trova di fronte comunque a 2.400 proposte didattiche, che non sono poche. Però ha comunque un quadro che sta diventando gradualmente più lineare, quantomeno. Infatti, ecco. No, poi non vorrei scatenare stamattina le ire dei veterinari, che magari avrebbero voluto che questo corso di benessere carregato di sé, con tutto l'amore per gli animali, ovviamente, no, ma magari poi si può trovare questa specializzazione all'interno di veterinaria. Esatto, e comunque esatto, è un problema di collocazione degli insegnamenti, non tanto del fatto che la singola materia non sia meritevole, ma di dove la si studi e come. Infatti, allora, io adesso tra l'altro vedo già che devo andare a fare la prima pausa, però volevo almeno salutare, permettere di fare un saluto a Gianluca Dan, dottore commercialista, esperto in materia fiscale per Il Sole 24 Ore. Immagino una laurea in economia e commercio. Laurea in economia e commercio e poi un master presso Il Sole 24 Ore. Ah, benissimo, questo non lo sapevo, quindi insomma, a bruciapelo. In ogni caso, col dottor Dan stamattina ci spenderemo in tutti i suggerimenti che sono necessari alle famiglie per poter alleggerire, dicevamo prima, la dichiarazione dei redditi, se ovviamente si sostiene necessariamente. Poi molti ragazzi lavorano e magari si pagano anche parte delle rate e delle tasse universitarie, però intanto magari subito la prima indicazione, dottor Dan, la possiamo dare: le tasse si possono possono detrarre la dichiarazione dei redditi della famiglia nella misura del 19%? 19% dell'ammontare delle spese sostenute per i corsi di istruzione secondaria e universitaria. Non c'è un tetto massimo? Non c'è un tetto massimo. Come per esempio per la detrazione dei mutui? No, non c'è un tetto massimo. In ogni caso per le università private bisogna fare riferimento a quella che è, chiamiamola, tariffa delle università pubbliche. Di conseguenza uno studente che frequenta un'università privata non potrà detrarre l'intera retta, ma dovrà esaminare nella sua città se ci sono altre università pubbliche e andrà a vedere quant'è la retta massima pagata in quel caso, e quello sarà il limite per poter detrarre. Benissimo. Le spese sostenute. Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea. Dottor Cammelli, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, noi non abbiamo dato ancora notizie precise relativamente alle vostre ultime statistiche, i vostri ultimi osservatori sulle prospettive occupazionali, sul profilo dei laureati. Prima di farcelo raccontare da lei, le faccio sentire cosa pensa dei vostri studi un ascoltatore di Modena, che saluto, che è Gianni. Buongiorno. Buongiorno. Sì, ci sente. Sento, la sento bene. Ci dica tutto. Ma senta, io... con tutto il bene che posso volere ad Alma Laurea, però visto che sono così solerte nel ricevere e nel raccogliere dei dati, volevo dare un consiglio, che un approfondimento, perché vedete, non basta dire che i nostri ragazzi quando escono dall'università lavorano. A Modena dicono che lavorano in percentuali molto elevate. Immagini che si dice che la facoltà che offre le maggiori possibilità di occupazione è scienze della formazione. Anche qua si parla di compensi, non uso il termine stipendi volutamente, di circa 1.000 euro, però ci deve essere qualcosa che non quadra, perché vede, io con la mia attività mi occupo di selezione del personale, vedo sì dei ragazzi occupati, però vede, se da laureati in scienze della formazione va a fare la commessa all'Ipercop, oppure l'assistente della poltrona, dall'amico del papà che fa il dentista, io francamente non la ritengo occupata. O quantomeno lo è dal punto di vista formale, non lo è dal punto di vista sostanziale. Gianni, quindi se ho ben capito, praticamente lei contesta il fatto, lei dice in sostanza sì, va bene dire che si sono subito proiettati nel mondo del lavoro concretamente, però bisognerebbe dire se con più precisione se esiste una corrispondenza fra laurea conseguita e mercato del lavoro, e posto di lavoro che si occupa. Un incrocio fatto con i centri per l'impiego, dove risultano gli occupati, ma risulta anche che mestiere fanno, secondo me potrebbero essere molto utili in termini di orientamento, piuttosto che un dato generico e spesso fuorviante come questo. Gianni, la ringrazio. Dottor Cammelli, insomma, le ho messo già subito una bella patata bollente sul piatto. Ma bollente fino a un certo punto. Mi fa piacere che il signor Gianni faccia queste, dico, riflessioni. Devo dire che noi nelle indagini che presentiamo ogni anno distinguiamo anche tra coloro che lavorano ma erano già occupati e coloro invece che iniziano il lavoro semplicemente dopo aver preso il titolo di studio. Allora, nel caso specifico che il signor Gianni cita, in effetti questo alto tasso di occupazione è dovuto essenzialmente o prevalentemente al fatto che una parte rilevante di questi laureati già insegnavano, poi hanno preso la laurea perché è stata richiesta per legge, quindi è evidente che questo finisce per fare lievitare in qualche modo questo tasso di occupazione, e potrebbe essere oggetto certamente di disorientamento se il giovane, che come lei ha ricordato oggi si accinge a fare una scelta, dovesse guardare soltanto a questo numero. Io dico sempre, insegnando all'università, ragazzi, i numeri sono importanti, sono una base di partenza essenziale, ma non fermiamoci soltanto a quelli. Quindi l'invito del signor Gianni naturalmente è quello di andare al di là di questi numeri, e nelle nostre indagini, tutte pubblicate sul sito, queste distinzioni ci sono e consentono al ragazzo di fare delle scelte più meditate, insomma. Abbiamo aperto la nostra trasmissione già commentando, dottor Cammelli, un messaggio di un ascoltatore a cui ne sono seguiti poi tanti altri e tante altre telefonate. Un ascoltatore, per esempio, chiedeva che cosa ne pensassimo su ingegneria gestionale, quindi una laurea abbastanza specifica. Prima dicevamo con Cristiano Dell'Oste che ci sono ancora delle tipologie effettivamente di facoltà che necessiterebbero forse di un'affluenza maggiore da parte di studenti, e invece ne continuano ancora ad essere privilegiate altre che non hanno un grandissimo mercato del lavoro, in sostanza. Su questa, per esempio, qual è il suo giudizio? Ma guardi Rosciani, io credo che in questo momento noi dobbiamo stare molto attenti a dare ai ragazzi delle indicazioni Io in questo senso penso perfino a mia figlia, l'ultima, che sta esattamente facendo le scelte che stanno facendo, credo, altri 400.000 ragazzi. Allora, se guardiamo al mercato di oggi e le nostre statistiche, anche le nostre, non possono che riflettere i dati dell'ultimo anno, nella migliore delle ipotesi, magari di 3 anni fa o di 5. Se guardiamo i dati di oggi, certo, le conclusioni sono così poco incoraggianti che verrebbe da dire cosa serve. Io invece ricordo, sottolineo, come ho scritto anche nel rapporto pubblicato da Sole 24 Ore, che i ragazzi che oggi fanno delle scelte debbono guardare all'Italia che sarà fra 4 anni, nella migliore delle ipotesi, più probabilmente 6. Allora è un'Italia nella quale avremo bisogno di più di giovani laureati, anche solo di primo livello, perché siamo molto indietro nel confronto tecnico internazionale. Naturalmente il numero ancora una volta non dice tutto, bisogna che ci sia una maggiore qualità nella preparazione di una parte dei giovani. E allora credo che quel settore ingegneria dico-gestionale, che oggi appare essere forse sottodimensionato, e certamente avrà bisogno di impegni più rilevanti. Guarderei quindi con più ottimismo ad un futuro che, per quanto ancora guardato con la lente di oggi, si faccia fatica a intravedere, sono proprio convinto che verrà, e verrà rapidamente, e servirà a questi giovani che usciranno, ripeto, fra 4-6 anni. Quindi ci rendiamo conto che, pur essendo piuttosto difficile, bisogna cercare anche di assumersi un impegno che poi ha anche un termine abbastanza non indifferente, perché sono comunque almeno 4 anni di studio, si deve cercare di avere una capacità di proiettare un po' lo sguardo verso quello che potrebbe essere la situazione, anche se poi la luce, come dire, la crisi finanziaria recente ci ha insegnato che effettivamente tante convinzioni possono essere demolite nel giro di pochissimo, per cui anche di questo bisogna tenere la dovuta considerazione. Allora, c'è un ascoltatore, dobbiamo ritornare al commercialista, perché visto che Salvadanaio guarda soprattutto alle tasche delle famiglie, a queste famiglie dobbiamo guardare con una certa attenzione. C'è un ascoltatore che volevamo raggiungere telefonicamente, non lo riusciamo a recuperare, ma dottor Dan, la domanda che la faccio io lo stesso. Ha un figlio, Giovanni da Ragusa, che studia qui a Milano al Politecnico, alloggia presso il campus universitario, paga l'affitto. Gli hanno detto che sostanzialmente questa spesa non è detraibile, però a noi non risulta. A noi non risulta. Colpa di un commercialista che gli ha dato l'informazione sbagliata. Molto probabilmente sì. E a noi non risulta essenzialmente perché viene rispettato quel requisito della distanza dei 100 km tra la sede dell'università e la residenza dello studente, e inoltre perché è possibile detrarre, sempre a misura del 19%, come già dicevamo, i canoni locazione derivanti ai contratti d'affitto stipulati ai sensi della legge 431-98, ma anche i canoni relativi ai contratti di ospitalità o agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con tutti gli enti per il diritto allo studio, l'università e i collegi universitari. In questo caso l'utente dovrebbe essenzialmente verificare se il campus universitario rientra in uno di questi soggetti legalmente riconosciuti, nel qual caso potrebbe detrarre la spesa sostenuta. Magari suggeriamo al nostro ascoltatore di Ragusa di collegarsi al sito internet del Sole 24 Ore. Cristiano, aiutami tu, se abbiamo tutte le coordinate per poter indirizzare i nostri ascoltatori anche alla, come dire, alla vostra guida di questa mattina, che è stata peraltro allestita con una task force abbastanza importante, tra cui c'è anche il dottor Danzi. La sezione di riferimento, insomma, è abbastanza semplice, bisogna andare all'indirizzo internet del Sole 24 Ore, quindi www.ilsole24ore.com, poi / quello che si chiama in inglese /, e poi università, quindi università ma senza accento in questo caso. Dopodiché si seguono tutte le indicazioni riportate, scegliete, ci sono diverse macro aree, scegliete quella che serve a voi per ovviamente orientarvi ancora meglio nella ricerca appunto della risposta alla vostra domanda, e quindi potete utilizzare, se stamattina sicuramente non riusciremo a rispondere a tutti, potete utilizzare questo canale. Poi da domani i quesiti e le risposte sono pubblicati dal Sole 24 Ore, come è successo per le altre guide. Esatto, diciamo che fino alle 18, fino alle 6 di questo pomeriggio si possono mandare le domande online. Poi una prima selezione di quelle, diciamo, di interesse più generale le pubblichiamo sul giornale di domani, e a seguire le altre saranno poi tutte pubblicate sul sito del Sole. Dottor Cammelli, volevo ritornare a lei perché ci sono tanti, probabilmente giovani, che ci stanno scrivendo una considerazione che li accomuna. Uno ci scrive, non si firma, quindi non so se sia un ragazzo o una ragazza: vi prego, parlate della laurea in fisica, delle lauree scientifiche per davvero, come chimica, matematica e biotecnologia. In questo paese siamo ancora troppo pochi a sceglierle. E Gianni da Pistoia che ci scrive: che futuro c'è per i geologi, per esempio? Scienze forestali e ambientali, un altro ascoltatore, Marco da Torino, si sofferma su queste. Bene, Allora, diciamo più in generale, le lauree scientifiche hanno avuto un tracollo, nel senso che gli iscritti a queste facoltà sono veramente precipitati fino a qualche anno fa, dimezzandosi rispetto all'inizio del 2000. Poi hanno ripreso a seguito di un impegno molto forte del Ministero, di Confindustria, di alcune università, e hanno lanciato questo progetto lauree scientifiche. Noi intendo l'Italia, siamo sicuramente in largo ritardo rispetto alla gran parte dei paesi europei, che già non sono molto avanti. Quindi non c'è dubbio che noi abbiamo bisogno sicuramente che più ragazzi si indirizzino verso questi percorsi di studio e li compiano bene, ovviamente, cosa che ha cominciato a riprendere in questi ultimi anni. Devo dire che le iscrizioni hanno già iniziato a riprendere in misura robusta, i laureati stanno cominciando ad uscire. Allora è importante che si faccia di più su questo settore. Naturalmente dobbiamo tenere conto che diventa ancora più importante che poi sul mondo del lavoro, il mondo del lavoro riesca a valorizzare appieno questi laureati. I pochi che sono usciti finora hanno trovato sempre, fino a quest'ultimo anno, ottime occupazioni in termini di tasso di occupazione, di stabilità nel lavoro. E il problema è quello, naturalmente, che il sistema produttivo riposizioni a livello internazionale per riuscire ad assorbire anche i nuovi laureati in queste materie che usciranno da oggi e nei prossimi anni. E quindi, insomma, non scoraggiatevi, anche se dai nuovi piani formativi sono stati depennati alcuni corsi singolari come Scienze del Fiore e del Verde, Cristiano, e Turismo Alpino, sicuramente queste persone che hanno queste vocazioni troveranno qualcosa che fa per loro. Assolutamente, quella era, come dire, una degenerazione del sistema che aveva frammentato troppo l'offerta. Poi certo, quello che sollecitava prima anche un ascoltatore è un problema vero, è un problema molto, molto sentito, quello del dire ok, io mi laureo, scelgo una certa materia, poi il mercato del lavoro saprà veramente valorizzare, saprà veramente recepire quello che io ho imparato, o finirò a fare un lavoro che in qualche modo avrei potuto fare anche con una laurea diversa o addirittura senza laurea. C'è un'ascoltatrice, Simonetta, che ci scrive: sono laureata in giurisprudenza, mi sono riscritta ad una nuova facoltà, lettere classiche, le tasse per le seconde lauree sono detraibili? Sì, certamente sì, sono detraibili, in quanto non c'è una distinzione tra prima o seconda laurea e nemmeno tra studenti in corso o fuori corso. Sono sempre detraibili nella misura che abbiamo già detto del 19%. Ovviamente se ha già conseguito una prima laurea e ha già un lavoro, potrà, se ha un proprio reddito e quindi un'imposta lorda, potrà detrarre essa stessa queste somme. Nell'alternativa in cui non abbia un reddito oppure abbia un reddito inferiore a 2.841 euro, può essere considerata a carico dei genitori essenzialmente, e quindi potranno loro detrarre la somma per la seconda laurea. L'affitto invece che si sostiene appunto per far studiare un figlio fuori sede, fuori dalla propria città d'origine. C'è un ascoltatore che ci dice di essere un po' più precisi, ci chiede di specificare l'entità della detraibilità del canone, 19% su quanto? 19% su 2.633 euro, e quindi per una detrazione massima, un risparmio massimo di circa di 500 euro. Cifre che peraltro si raggiungono in un batter d'occhio, perché insomma, per chi viene da lontano sa benissimo quanto costa anche solo una camera per studiare appunto a Milano. E allora adesso chi sentiamo rapidamente? Grazie da Forlì, buongiorno, una mamma preoccupata? Sì, buongiorno, sono molto onorata di parlare con voi. Grazie, siamo onorati noi, grazie di parlare con voi. Fa molto piacere. Allora, il mio più che altro è un problema psicologico, perché mio figlio è fin troppo bravo. È iscritto all'università, contemporaneamente lavora, e a me non ha fatto molto piacere questa scelta, perché ho pensato che era meglio finire e poi laureare e poi lavorare. Ma pensa, nota che gli sta portando via del tempo allo studio, sta un po' in ritardo. Lo vedo stressato, quindi il ragazzo è molto sotto stress, tanto più che da un anno le condizioni in casa mia sono cambiate, ha perso il padre e quindi lui potrebbe studiare praticamente senza essermi di peso, e invece lui mi ha fatto questo discorso: io ho piacere di investire nel mio futuro, lavora praticamente gratuitamente. Ecco, a me dispiace molto il fatto che lui sia stressato, ma è così, ha proprio fatto la scelta giusta, è un investimento per il futuro, lavorare cominciare già da ora sin da subito. Senza rinunciare. Beh, intanto grazie e complimenti per la maturità di suo figlio, segno che comunque, come dire, lo stimolo educativo nella sua famiglia è stato notevole, non indifferente, e questo già ci piace sottolinearlo. Dottor Cammelli, insomma, per ragazzi molto responsabili come il figlio di Grazia, che già vogliono impegnarsi nel mondo del lavoro portando avanti anche l'impegno universitario, immagino lo stress a cui questo ragazzo possa essere sottoposto, però mi sembra anche un atteggiamento dal punto di vista della responsabilità da sottolineare. Non c'è dubbio, certo dipende dalla facoltà che fa, perché vi sono facoltà e percorsi di studio che consentono questa difficile attività sia di studio che lavoro, altre francamente nelle quali questa cosa è possibile. Certo che lui mi sembra che possa essere un prototipo di chi sa per un fatto, cioè sa e peraltro si impegna a fare, quindi a sapere per un verso e a fare, che è un elemento importante che nelle nostre università non è così frequente, si realizza soprattutto in chi fa tirocinio, chi fa praticantato, ma non è facile, invece è uno degli obiettivi alle quali l'università bisogna che punti sicuramente, perché i ragazzi non escano sapendo o credendosi di sapere, ma essendo assolutamente digiuni delle capacità di fare, e quindi se investe nel suo futuro in questo modo mi pare che stia facendo bene, che non paghi un prezzo troppo elevato, esatto, in termini di stress ovviamente. Perché magari insomma che si possa fare un discorso a tavolino molto onesto, fa mamma e figli, insomma magari prova, se proprio vedi poi che non ce la fa non c'è niente di male, se per un attimo si ferma anche con il lavoro magari si impegna un po' di più con lo studio, dipende poi come gli sta andando anche questa esperienza professionale. Cristiano, c'è un ascoltatore che ci scrive: quanto potrebbe venire a costare 5 anni di studio fuori sede, per esempio a Milano, quante variabili ci sono in gioco, chissà se è qualcuno che si merita una borsa di studio e magari insomma può abbattere notevolmente le spese per le tasse e per quant'altro. Certo, diciamo che le variabili in gioco sono davvero moltissime. Intanto, dicevamo prima, la voce di spesa principale in una città come Milano con ogni probabilità non sarebbero le tasse universitarie, ma sarebbe l'affitto, a meno che lo studente non sia così bravo e la famiglia abbia i requisiti, diciamo, di reddito sufficientemente bassi da poter rientrare nei posti, diciamo, costituiti da collegi e residenze universitarie, che sono però molto pochi e che regolano appunto l'accesso sulla base di un reddito familiare che di solito è misurato con l'ISEE, che è l'indicatore della situazione economica equivalente, e sulla base del merito. Quindi ci sono, quindi la media voti e nel caso, diciamo, degli anni del primo anno la media il voto di diploma della maturità. Quindi questi sono un po' gli elementi. Poi ovviamente a questo bisogna aggiungere tutte le altre spese collegate, quindi i libri, quindi i viaggi. Insomma fare un preventivo è molto difficile. Molto dura. Allora, tra l'altro non abbiamo toccato, sarebbe stato molto interessante il tema dello studio all'estero, dottor Dan, per chi studia all'estero, per esempio, ecco, l'incentivo fiscale vale nella stessa misura che abbiamo detto prima, quindi se si studia a Cambridge piuttosto che negli Stati Uniti, ovviamente una famiglia deve pagare anche per questo ragazzo, giustamente, quindi gli affitti, in questo caso le tasse universitarie possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi della famiglia? In parte sì, in parte no. Essenzialmente le tasse, le spese di iscrizione all'università sono detraibili anche qui in base a un equivalente con l'università pubblica di residenza del domicilio fiscale dello studente, mentre non è possibile detrarre le spese sostenute per i canoni di locazione. Allora, io tra l'altro sono veramente dispiaciuta che la puntata stia volgendo al termine, perché ho tante riflessioni molto belle da parte di tanti ascoltatori, avrei voluto accontentare tutti. Cerchiamo magari in rapida successione di sentire gli ultimi due che sono collegati telefonicamente con noi. Emanuele da Lecce, ce la fa ad essere molto sintetico, così giro subito la sua riflessione a Cammelli. Salve, io sono, guarda caso, uno studente fuori sede che studia a Milano, quindi vi posso dare la mia testimonianza diretta, che purtroppo studiare a Milano costa perché gli affitti si aggirano intorno ai 500 euro, perché le tasse universitarie, o statale o privata che sia, sono comunque molto più alte rispetto alla media italiana in genere, e perché comunque, voglio dire, Milano è una città che comunque ha un tenore di vita molto alto, quindi per poterci vivere si fanno grossi sacrifici da parte di tutti. Emanuele, io mi sono trasferita qua 13 anni fa per lavorare, sono ancora scioccata dall'impatto che ho avuto con questa città, perché ancora prima di cominciare a lavorare ho dovuto tirar fuori e 3 mesi per l'affitto e la cauzione e gli anticipi e quant'altro, quindi la capisco benissimo, anzi ti capisco benissimo, perché sento che sei un ragazzo. Dottor Cammelli, comunque tanti aspetti scoraggiano, certo che rispetto agli Stati Uniti, dove ci si indebita già a 15 anni per cominciare a studiare, le si finisce di restituire a 50 anni a percorso professionale già ben avviato e consolidato, forse da noi ci vanno addirittura bene le cose. Però bisogna dire che negli Stati Uniti c'è anche un sistema di diritto allo studio che consente ai capaci e meritevoli, seppure sprovvisti di mezzi, come dice la nostra Costituzione, di poter veramente affrontare studi anche molto impegnativi senza tirare fuori un becco di un quattrino, certo impegnandosi a restituirli successivamente. Da noi su questo treno bisogna fare di più, certo, e meglio. Dottor Cammelli, un messaggio conclusivo, rassicurante e positivo per i ragazzi che ci ascoltano, chi sta facendo la maturità e fra un po' comincia a scegliere anche il corso universitario. Io sono convinto, ragazzi, che il nostro paese ha pochi laureati, molti meno di quanto non ne abbiano gli altri paesi europei in termini di percentuali, quindi il paese che affronta la società della conoscenza verso la quale siamo puntati ad andare ha bisogno di giovani capaci e preparati. E credo che quindi investire di quell'istruzione sia davvero oggi l'investimento migliore. Esatto, magari fate uno sforzo un po' meno scienze delle comunicazioni, perché qua ce ne abbiamo anche fin troppi di giornalisti, di gente che si occupa di comunicazione. Collegatevi al sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com/università, girate tutte le domande agli esperti del quotidiano che vi sapranno sicuramente orientare meglio di quanto lo abbiamo fatto noi oggi. A Salvadanaio, buona giornata a tutti.